24 mattino. L'Italia si desta. Di Alessandro Milan. Si sente dire da più persone, l'ha detto anche Casaleggio ultimamente, guardate che lo ha detto anche il ministro Del Rio ultimamente, guardate che quest'autunno può esserci una rivolta sociale. E in effetti io la penso così. Se noi non facciamo, se loro che stanno in Parlamento non fanno qualcosa di riconoscibile, che c'è una voglia di cambiamento, disinnescheremo una miccia che da un momento all'altro porterà alla violenza le vetrine rotte. Cari italiani, è così, a furia di evocare la violenza, evocarla nel senso, questo era Antonio Di Pietro, a dire ci sarà la violenza, in autunno, la violenza, tutti a giocare con la miccia accesa, ma cari italiani, ma che violenza, ma perché, sì, la rabbia c'è, ma adesso da 2 giorni tutti a dire che ci sarà Casaleggio, Del Rio, Di Pietro, ci sarà la violenza, vabbè, questa è 24 mattino, noi pensiamo all'estate per il momento. Sono le 6:30 minuti, voglio salutare la redazione, come sempre, Andrea Longoni. Sì, non ce l'ho contro la fine 3. Milan, sei proprio un coglione. Ma ecco, è possibile che sei un pirla così, lavori in radio? E il mondo va così. Vabbè, pazienza. E vabbè, Alessandro Longoni, e dire che si chiama come me non dovrei sbagliare, così come Carmelo Lauricella in regia. Saluto anche il nostro ascoltatore, saluto Paola Saluzzi, buongiorno. Ma non è giusto, che ma cosa? Come fa a essere l'ultima puntata? Io capisco che dobbiate andare in ferie, ma qui si creano problemi di assenza, di no, aiuto, guarda. E adesso io mercoledì che faccio? Il giovedì, il venerdì. Se vuoi ti chiamo alle 6 del mattino, ma non c'è problema. Voi, ma capite che sarà tutta un'altra mattina, tutto un altro modo di svegliarsi. Buongiorno. Vabbè. Soprattutto buone vacanze, stanno arrivando. Certo, se vuoi ci chiameremo alle 6 del mattino, ecco, però in onda no. Comunque, l'ultima puntata con Paola Saluzzi e con Luca Dini, direttore di Vanity Fair, buongiorno. Buongiorno. Eccoci qua. Andremo in rehab. Cos'è che facciamo, Luca? Andremo in rehab. Sì. Sì, questo era un modo sottile, sempre molto british, del direttore di Vanity Fair per dire: hai finito di svegliarmi alle 6:30 del mattino ogni mercoledì? Abbiamo finito. Allora, io vorrei proprio partire da qui. Ma questa evocazione della violenza, poi vedremo i giornali, tanto di che parlano i giornali: la casa, il lavoro flessibile, l'Expo Alma, la vicenda kazaka. Oggi su una vicenda kazaka ho preso il Fatto Quotidiano, ho barcollato un attimo quando a pagina 2 hanno intervistato in diretta il ministro alla giustizia della Repubblica Centrafricana, che pare sia una persona chiave in questo. Lì un attimo ho avuto uno sbandamento, stavo cadendo, ho detto no, vabbè, ma perché questa signora aveva anche un passaporto della Repubblica Centrafricana. Ma voglio partire prima dall'apertura del Parlamento, come sempre la nostra saracinesca può aprire, e se apre, se mai apre, non apre. Oggi pure quella è andata in vacanza. Paola, che dobbiamo fare? Qua siamo in vacanza, niente. Ho fatto un po' fatica. Il caffè volentieri a tutti quanti. Io non lo voglio il caffè della Minetti. Tu continui, che forse hai preso anche tu i suoi favori? Trozzate col caffè della Minetti, noi non lo vogliamo dalla Minetti, brutto cretino d'un Milan. Ecco, tutti in vacanza andremo. Allora, Paola Saluzzi, il fatto di continuamente dire ci sarà violenza, come la prendi tu? No, non ci sarà violenza, nel senso, attenzione che potrebbe succedere violenza. Intanto grazie per aver fatto questa apertura, perché era quanto mai opportuna. E basta non vuol dire non evochiamo la pioggia, se sta arrivando, non pioverà e poi si mette a piovere. Per carità, bisogna avere attenzione, cura e occhio, perché tutto quello che accadrà in autunno non sia il continuo rimando e rimandare qualcosa, ma fare ed essere operativi. La trovo una orrenda evocazione che rischia di diventare una moda. Sì, l'ha sì, detto sì. Uno, lo diciamo tutti. Sì. Orrenda. poi l'ha detto prima Casaleggio, poi l'ha detto un ministro Delrio, cioè un ministro della Repubblica Italiana, dicendo Casaleggio ha ragione, anche ovviamente Delrio ha detto vado in giro e vedo la rabbia, anche noi la vediamo, la sentiamo, certo, la segreteria certo, telefonica. Ma non è detto, non stiamo dicendo va tutto bene, sono le 8 e tutto va bene, sono le 6:30 e tutto va bene, non stiamo dicendo questo, ma questo evocare lo trovo, come dire, non solo inutile, ma dannoso. Sì, un po' perché sì. Mi sembra di dire di dare ai bambini, non siamo bambini noi popolo, ma di dare ai bambini il cerino in mano e di dire sta attento, però. No, ma è chiaro, poi dicono e poi cade il secondo riflesso, scatta il secondo riflesso a dire vabbè, ma uno fotografare la realtà si può, non so. E ma da fotografare la realtà di casa tua, ma per cortesia, dai. E tu, direttore, che ne pensi? Ma Luca, a me sembra che siccome c'è chi lo dice da un pezzo, onestamente, con un po' di cattiveria mi viene da dire che mi sembrano quasi delusi che non siano. Che non sia successo alla fine. Sì. Un po' basta anch'io di sì, c'è questa sensazione, tanto lo sappiamo che certamente in autunno poi tireranno fuori l'autunno gli caldo piace, gli piace tanto, sì, detto alla romana Alessandro, gli piace tanto un po' sì, no, lo sappiamo che poi in autunno ci saranno delle scadenze, l'IMU, l'IVA, la gente riprende, perché poi anche questa cosa c'è, cioè, in autunno, allora perché dovrebbe succedere in autunno? Perché adesso la gente pensa alle vacanze, pensa andare in spiaggia, per andare in vacanza non ci pensi neanche ad agosto, ad andare in vacanza, no, perché siccome abbiamo la smania dell'autunno caldo, frase che sentiamo ripetere quantomeno quelli nati negli anni 60 da sempre, e per carità è tutto vero, e per carità la storia ce l'ha insegnato, però è come se, ecco, bravissimo Lucadini, ci fossero rimasti male, dice, ma com'è che sinora non c'è stato niente? Accidenti. Infatti, adesso non so, in estate è tutto sospeso, perché la gente che fa? Per loro è sospeso, è sospeso. Sono loro che in realtà, no, è chiaro. In realtà, vabbè, via SMS qualcuno ci scrive, ma non è che dicono, non è che evocano, dicono se non facciamo, perché poi se non facciamo, ma che le dobbiamo fare? Io, Paola Saluzzi e Lucadini, le cose. Cioè, ma magari. No, Di Pietro dice se non facciamo qualcosa, ma Di Pietro non sei anche più in Parlamento, ha già fatto abbastanza Lucadini, l'editoriale di Lucadini su Di Pietro è ha già fatto abbastanza, punto. I soliti due nomi Scilipoti e Razzi, vorrei ricordare. Scilipoti e Razzi, va bene. Razzi, adesso recuperiamo l'audio di Razzi, quello che abbiamo mandato anche ieri. E comunque prima anche Bersani, allora Bersani è stato accolto così, attenzione, Bersani sta facendo il giro delle feste dell'Unità, nelle quali dice devo far sapere la mia verità, e lo hanno accolto così, sentite. C'è solo un segretario, c'è solo un segretario. Grazie Paola Saluzzi, ma come, c'è solo un segretario? Ma non era Matteo Renzi quello che arrivava, era Bersani. Ma aiuto, bene, io l'aiuto così in questa puntata, aiuto. E sentite Bersani, anche lui parla di Casaleggio. Oggi ho sentito Casaleggio che dice, arriveranno le rivolte. Con questa situazione sociale, questa situazione politica. Ricordo un qualsiasi accordo col PD, dice Casaleggio, mi dimetto. Quindi l'alternativa è o la rivolta o le dimissioni di Casaleggio. Veda il Movimento 5 Stelle cosa intende fare, ecco. Non vorrei che da più un po' Casaleggio ci proponesse il suicidio di massa, perché ci proponesse il suicidio di massa. Volano tacchini. Lucadini oggi pensa che Giorgio Napolitano, capo dello Stato, interviene, prende carta e penna e scrive al Corriere della Sera, perché ieri Bertinotti l'ha bacchettato dicendo lei non può congelare il governo, e Napolitano spiega no, io non posso congelare il governo, ma ci ricordiamo il fallimento di Bersani, cioè nel senso ma siamo lì ancora attaccati a questa Bersani, che ne pensi di Bersani, Luca? Che dire, me ne ero un po' dimenticato, ecco. Ma come, c'è solo un segretario? Questi urlano. No. Continuiamo a parlare di questo. No, sulla cosa che dicevi prima aggiungerei un'altra cosa, cioè, mi ha colpito molto il fatto, gli scontri che ci sono stati per la TAV, e mi sembra di aver capito che le persone coinvolte fossero tutte non locali. Cioè, è un po' la stessa cosa, cioè, istigare la rabbia o fare appello a qualcosa, cioè, mi sembra alla fine che si vada più che altro a incitare chi fa rabbia di professione. Sì, insomma, sì, è vero. Anche perché nella vicenda Notav mi sembra che la maggior parte di coloro che contestano in maniera legittima, se uno vuole contestare, certo, un'opera, cioè in maniera pacifica, siano quelli della valle, appunto. Mentre ci sono i cosiddetti infiltrati, no? Quelli ci sono, non è che lo dico io, lo dico le forze dell'ordine. E anche lì succede, è una situazione di tensione sempre perenne, eccetera. Sentite, a questo proposito, ecco cosa ha detto un senatore del Movimento 5 Stelle, il senatore Scibona, noto per essere anche il senatore Notav. Senti Paola Saluzzi, chi cita, Lo stesso Gandhi diceva appunto che nell'ambito della lotta non violenta, per uno scopo più alto, si può ricorrere al sabotaggio di materiale, ovviamente non di persone. Gandhi! Paola Saluzzi, Gandhi! Ma qui c'è preso una pazzeria in generale. Gandhi! Gandhi, sabotaggio di materiale. Gandhi! Ma io fossi Gandhi farei causa. Sì, fossi Sonia Gandhi. Farei causa. Gandhi. Ma per favore, Gandhi, ma no. Gandhi e il TAV. Ma no, sì, ma sì, no. Sì. Ma anche Gasparri aveva citato Gandhi, faremo la protesta gandhiana, seconda no. Gandhi, usare Gandhi, così una persona... Sì. Sanno, però la NASA ha lanciato un progetto per il polo sud della Luna. Andranno sul polo sud. Cos'è della questa? Luna. Allora, io voglio dire, è un territorio vasto, ampio, aperto. Sì. Cominciamo a pensarci, no? Sì, ecco. Sì. Perché magari con delle basi, mi ricordi Spazio 1999? Mitico! Il comandante Koenig! Spazio! Ma costruire qualcosa laggiù, Spazio, e qualcuno si trasferisca, e non ne parliamo più, perché c'è tanto da fare, tanto. Poi, dici, facci tu, sì, sì, va poi, bene. Poi chi c'era Spazio 1999? A me piaceva quella, Maya si chiamava, Maya. C'era Maya, sì, ma è quella, vero, quella che aveva le sopracciglia tutte particolari. Certo, tu Luca Dillo guardavi Spazio 1999? Assolutamente sì. Maya, no? Era quella con le sopracciglia a pallini, no? Sì. E c'era Alan Carter, che non era Nick Carter, che era ufficialmente il pilota Bonazzo, che uno guardava perché diceva che bello, rivisto dopo una tragedia, il un uomo pilota il pilota Bonazzo delle Aquile, no, le Aquile. Il pilota Bonazzo delle Aquile. E poi quando è arrivato il 1999 io ci sono rimasta malissimo, perché ho detto, ma com'è che non siamo lassù? Non c'è Maya, non c'è Carter, non c'è il comandante. Effettivamente. Allora, prima potremmo pensarci, sì. Prima di parlare di cose anche serie che mi hanno colpito e che vedo in prima di Vanity Fair, allora vogliamo sentirlo Razzi, il mitico Razzi, quello che dice, che lingue parla Razzi, sentite, Quante lingue parla lei? Ma io conosco il tedesco e lo spagnolo, un po' l'inglese e un po' il francese, e poi l'abruzzese. L'italiano no. L'italiano poco. Luca Dini lo ammette lui stesso, vedi che... Che... però mi sembra l'ultimo dei suoi problemi. Sì, sì, sì, sì. Rimase straordinaria la performance quando doveva parlare del traffico veicolare in Parlamento. Drastica riduzione del fenomeno di codesta nel traffico veicolare a Roma. Saluzzi, cosa ridi? Questo... Ma come faremo senza voi? È un rappresentante del World Economic Forum, è il contadino di Terni, ma io vi sto ricordando tutto il meglio di quest'anno, esatto. Cadremo in una sorta di problematica triste nell'aspettare. Sì, troveranno mercoledì prossimo Paola Saluzzi in stato catatonico che gira per Roma. Nessuno mi chiama! Dov'è il Parlamento? Bussa le saracinesche, aprite il Parlamento! esatto. E tutti che diranno, ma dove vai? Ma vattene a casa! Che è? a sigla di Spazio 1999. Siamo al delirio più puro. No, meravigliosa regia, grazie. Ma sì, ma anche su Twitter, Alino Milan, sì, scrivete se voi siete stati tra i fans di Spazio 1999. Lanciamo queste richieste. Allora, nella copertina di Vanity Fair oggi troviamo una bellissima donna, bisogna dire, Michelle Hunziker. Bella. Però, e qui voglio introdurre l'argomento, solo poi lo approfondiamo dopo il traffico. In realtà le storie che mi colpiscono, Luca, sono di altre due donne che sono citate in prima di copertina: Halle Berry, che ha avuto un passato anche di rapporti con uomini violenti, e si collega al caso di Cataldo, no? Questa vicenda un po'... Che idea ti sei fatto, Luca, di questa vicenda della compagna, ex compagna di Cataldo, che ha messo queste foto su Facebook in cui appare sanguinante dicendo ecco come mi ha conciato Massimo di Cataldo? Guarda, onestamente non so che cosa pensare, ti dico la verità, perché... tanta tristezza ovviamente in ogni caso, anche nel caso assurdo a quanto pare, impensabile, in cui fosse tutta una fabbricazione, diciamo, perché comunque sarebbe un sintomo di fortissimo disagio, di forte malessere. Mi sembra veramente quasi impossibile che quelle foto non possano essere state causate da qualcosa di diverso. Che dire, io spero che questa cosa, spero comunque che non finisca così. Intanto c'è un'indagine, ovviamente. Sì. L'indagine è doverosa, però insomma, devo dire che quando molti hanno detto, ma non poteva denunciare, perché fare questa cosa pubblicamente? Beh, io penso che se le cose stanno come ha detto lei, io non mi sento di giudicare. Non mi sento di giudicare chi non denuncia, non mi sento di giudicare chi sceglie di fare una cosa così eclatante, perché non ci sono passato e quindi non me la sento. È un qualcosa davvero sì, di molto ampio da affrontare. 24 mattino. Alessandro, che bella lezione che ha dato il Papa ai nostri politici. Loro hanno il porta borse, perché la borsa gli pesa troppo. Il Papa se l'ha portata da sola. Ma che lezione! No che si stanno a litigare come Brunetta la poltrona, invece di pensare agli italiani, ai poveri cristi. Buonasera, vorrei fare un appello alla signora Merkel. Visto che noi italiani non riusciamo a liberarci della nostra classe politica, perché non ci rimanda l'esercito? Sicuramente non incontrerà la resistenza stavolta. Sarebbe la cosa a braccia aperte. Caro Milan, vorrei mandarti a quel paese. Da interista già il nome mi girano le palle. Ma quello che più mi dà fastidio è che tu per me sei diventato come una droga. Ti ascolto sempre. Facendo i turni, anche quando sono a casa e potrei dormire, punto la sveglia alle 6:20 per ascoltarti. Ora vai in ferie e riuscirò a riposare. Caro Alessandro, ma io dico una cosa, visto che siamo in tema di sacrifici, un altro piccolo si potrebbe fare. Il governo, per esempio, potrebbe studiare una mini tassazione applicabile su tutte le schede telefoniche, su tutti gli scontrini fiscali e su tutte le bollette. Alessandro, ho sentito ora che con quelle facce io non so come definirle, ha parlato di formazione molto elevata, quindi giustificavano gli stipendi che prendono questi ladri di Stato. Ma quale formazione molto elevata, che l'Italia è nella merda fino al collo grazie a loro? Ma di cosa stanno parlando questi dementi? Vabbè, questo ascoltatore ce l'aveva, credo, con gli stipendi dei dipendenti della Camera. Allora, siamo con Luca Dini, direttore di Vanity Fair, e con Paola Saluzzi, che anche oggi condurrà Sky TG24 pomeriggio alle 15. Paola, e che dire? Allora, il tema è molto delicato, no? Il rapporto tra uomini e donne, le tante donne che subiscono violenze di vario tipo, denunciare, non denunciare... è anche questo caso, no? Che tu ti sei fatto un'idea di questa vicenda. Per carità, non possiamo giudicare i fatti, no, li conosciamo. Ho trovato estremamente saggio l'editoriale, l'articolo di domenica scorsa di Gabriele Romagnoli su Repubblica, che parlava di commissariato Facebook. In questo senso, denunciare assolutamente sì, sempre. Quindi, e oggi avere Michelle Hunziker, oltre che per le sue vicende personali bellissime, l'arrivo di un nuovo bambino, grazie direttore, perché è un ulteriore indice però di attenzione alla violenza sulle donne. Se ne è fatta apposta, certo, è una donna che si batte molto ovviamente per queste cose, con l'avvocato Buongiorno, quindi ottima scelta, da lettrice sto parlando. Commissariato Facebook, è pericolosa solo una cosa, che la denuncia, se sei famoso o se sei noto o se stai con un personaggio famoso, diventi immediatamente denuncia, e su questo poi lavorerà, come dire, lavoreranno le indagini e lavorerà chi debba lavorare. Poi la donna finita nel freezer a Bologna aveva denunciato sul suo blog lo stalker, certo, e la situazione di pericolo, e non se l'è filata nessuno, detto alla romana. Allora, questo è l'unico pericolo, cioè va bene, è chiaro che poi la denuncia non erano false quelle fotografie, si capirà se siano state create apposta o meno, se niente è creato apposta sarà giusto giudicare, però dare valore allora a tutte le denunce che escono su Facebook, a tutte. Sì, questo è il problema, anche non perché al di là di Facebook sono molte le storie, Luca, anche e continue, nonostante le leggi, nonostante siano fatti passi avanti, in cui si dice aveva denunciato tante volte e poi le cose accadono comunque. Allora, di fronte a queste cose... Lì secondo me, devo dire, bisognerebbe fare un appello all'autorità giudiziaria a esercitare molta attenzione, perché ci sono tantissimi casi di uomini, in genere sono uomini, non sono sempre uomini, però diciamo statisticamente parliamo sono di soprattutto uomini, certo, che dopo aver fatto di tutto e minacciato pubblicamente di uccidere eccetera, vengono sostanzialmente messi in condizioni di farlo. Io capisco che, però, insomma, quando si giudica la pericolosità sociale o quanto si debbano prendere sul serio le minacce, beh, secondo me, insomma, prenderle un po' più sul serio. Questo sì, ma chiunque ha una storia, magari tra le amicizie, anche nelle cerchie di amici, anche a me è capitato, è ancora reale, vera e concreta la frase, andando alle forze dell'ordine dicendo: lo so, ha ragione, ma abbiamo un po' le mani legate, non possiamo fare poi più di tanto. Questa frase c'è ancora, vi assicuro, ma non perché non vogliano fare, ma perché, perché la situazione è... stia attenta, lo so. La mobilitazione, allora, visto che prima invocavano sarà un autunno caldo, sapete che vi dico? Ci dovrebbe essere una mobilitazione generale, questo sì, da parte delle persone che sanno che quell'amica venga picchiata, che sanno che quella persona venga maltrattata, lo sanno perché gli va a piangere a casa, perché è capitato, perché è successo. Dovremmo avere il coraggio morale di dire fra moglie e marito non mettere il dito, mannaggia chi l'ha scritta questa frase, o l'ha pensata, in realtà l'ha pensata la storia e la saggezza, di andare, non mi avete ascoltato in una, andiamo in tre, andiamo in quattro, andiamo in cinque, andiamogli sotto casa, facciamo l'opposto, andiamo noi amici e amiche, ma dico amici perché intendo chiamare in causa anche gli uomini estremamente per bene che esistono, gli uomini validi, gli uomini di valore, gli uomini che non toccherebbero una donna davvero, ma neanche si farebbero passare per l'anticamera del cervello uno schiaffo. Facciamo gruppo, perché poi accade che un padre pazzo, maledetto, è pazzo, avveleni figlio, li soffochi, io non so che cosa, e gli dia fuoco. Sì. È così. Il tema però comunque lo trovate su Vanity Fair in prima pagina, insomma, storie diverse appunto, da Michelle Hunziker a Le Berri al caso di Cataldo. Che dire, abbiamo un minuto, poi vi devo salutare. È capitato anche a te, Luca, sei caduto sul Royal Baby. Ho dovuto il Royal Baby. E c'è, creaturina, manca un nome. Ma sì, creaturina, dagli un nome, dai, Paolo, saluti, daglielo tu. Giorgio. Giorgio d'Inghilterra, il papà della regina Elisabetta. Ah, pensavo come George Clooney. Ma insomma, un po' di storia. Ah, vabbè, sì. Ah, sì, re Giorgio, me lo ricordo anch'io. Luca Dini, dagli un nome, dai, su. Poi delle... no, Giorgio anche per me. Ah, vabbè, allora all'unisono così, Giorgio, diamogli, allora daremo il nome George, va bene, George. Va bene, siete contenti? Oh, Ma chiamiamo Alessandro, invece, sì. Come Milan. Ma finisce, chiamiamolo Milan, Milan. Chiamiamolo Milan e Milan. Non ne parliamo più. Sì. Va bene, io vi devo salutare, ma tu Paola Saluzzi vai in ferie? Oh, no, finisce, l'hai detto, fino al 2 agosto, aspetti la sentenza agosto. Berlusconi, aspetta a vedere se il 2, se il 2 agosto c'è ancora l'Italia, il governo, e poi se ne andrà in vacanza. E allora oggi alle 15 su Sky TG24 pomeriggio. Grazie Alessandro. E tu Lucadini vai in vacanza? Un pochino sì, adesso per qualche giorno. Un pochino. Va bene, allora buone vacanze, vi ringrazio per questa stagione lunghissima, vi abbiamo sbrandato a lungo alle 6:30 e andiamo al giornale radio, ci ritroviamo subito dopo per la rassegna stampa. Volete dire la vostra? 02 4652 4492. Chiamateci e parlate con la segreteria telefonica di 24 Mattino. 02 4652 4492. E ricordate, Alessandro Milan vi ascolta. 1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 Mattino. L'Italia si desta. Eccoci qui alle 7:14 minuti, pronti a leggere i giornali con voi, cari ascoltatori. Siamo sempre in diretta, lo saremo ancora questa settimana per quel che riguarda 24 Mattino, poi un po' di ferie anche per noi, Allora, oggi di cosa parleremo alle 8:15? Dalle 8:15, ieri mi ha molto colpito ciò che il presidente della Commissione Bilancio della Regione Sicilia ha detto, e cioè abbiamo bisogno di soldi, altrimenti non riusciremo a pagare i dipendenti pubblici della Regione. Questo tema, i dipendenti pubblici, sono troppi, sono pochi, sono produttivi, sono improduttivi? Ne parleremo con il presidente della Commissione Bilancio alla Regione Sicilia. Ci sarà con noi anche il leghista onorevole Buonanno, quello che fa un po' il Pierino alla Camera e che ha detto in Sicilia ci sono più dipendenti pubblici di tombini ormai. E ci sarà anche il nostro Alberto Forchielli che torna, perché lui sui dipendenti pubblici qualche giorno fa ne ha sparate alcune, tipo il problema dell'Italia è che decide chi governa la parte improduttiva del paese, dipendenti pubblici e pensionati. Ne ascolteremo delle belle dalle 8:15, ora andiamo a leggere i giornali. È mercoledì 24 luglio, intanto i titoli, il Sole 24 Ore inizia oggi un'iniziativa quotidiana dal titolo La tua casa. Ogni giorno ci sarà uno speciale che illustrerà le nuove regole in vigore, quelle in arrivo, perché sarà un'estate certamente molto calda sul fronte casa, IMU in primo piano soprattutto. IMU, catasto, condominio, la guida pratica sulla casa, questo è il titolo di prima pagina del Sole 24 Ore. Il lavoro flessibile parte da Expo, questo invece è il titolo di prima pagina del Corriere della Sera, che si riferisce appunto all'accordo sindacale per la maggiore flessibilità e 800 nuove assunzioni per l'Expo. Svolta sui contratti flessibili, questo è anche il titolo di apertura della Stampa. Il Messaggero, Fiat, valutiamo se restare in Italia dopo la deposizione della sentenza, come abbiamo sentito in giornale radio, che ha condannato Fiat per la vicenda sindacale con la FIOM. La minaccia di Marchionne è anche il titolo di prima pagina dell'Unità. Repubblica invece fa una denuncia sul decreto del fare, o meglio sulla approvazione oggi prevista in Commissione Giustizia di un tema riguardo appunto ai processi di mafia. Il titolo di Repubblica è voto di scambio, la rivolta dei PM e scontro sulla legge, sono a rischio i processi di mafia. Vedremo di che si tratta. La vicenda kazaka ancora sul Fatto Quotidiano. Alma, il passaporto è regolare, avvertimmo Roma inutilmente, parla così il ministro alla giustizia della Repubblica Centrafricana. libero, la legge non è uguale per tutti, provate a cacciare questi. Per una Shalabayeva rimpatriata alla velocità della luce ci sono decine di pericolosi clandestini colpiti da provvedimenti di espulsione che restano in Italia. Il giornale invece mette si tengono i soldi, è la vicenda del finanziamento pubblico a partiti, ma mette anche un countdown meno 6 alla sentenza Berlusconi. Mentre Avvenire apre, è la festa della speranza al viaggio del Papa in Brasile, e il manifesto Royal Baby, ma mette la foto di Giorgio Napolitano e Enrico Letta. La maggioranza più ampia della storia è costretta a blindarsi in Parlamento contro gli emendamenti a 5 Stelle, cioè per il manifesto. Dunque, Royal Baby è il bimbo Enrico Letta abbracciato da Giorgio Napolitano. A proposito di Giorgio Napolitano, vi dico che oggi il Presidente della Repubblica scrive una lettera al Corriere della Sera, tra poco la vedremo, nella quale si difende dalle accuse fatte ieri dall'ex Presidente della Camera Bertinotti, sempre sul Corriere della Sera, nella quale lettera Bertinotti diceva, insomma, Napolitano, lei non può congelare questo governo. E oggi Giorgio Napolitano, capo dello Stato, risponde per la prima volta pubblicamente con una lettera anche a queste accuse di avere fatto da parte di qualcuno, insomma, di avere aver detto o questo governo o il disastro. Tra poco sentiremo cosa ha scritto Napolitano. Prima però voglio partire da alcune notizie, visto che parleremo di Sicilia. Questa è proprio da Mani Strette sul Volante. Ieri so che ne ha parlato anche Sebastiano Barisoni. Mani strettissime sul volante. Oggi il Fatto Quotidiano dedica una pagina alla Sicilia. Fantasia, la regione pagava per non lavorare. Ecco, appunto, quando si parla di dipendenti pubblici, in questo caso una situazione paradossale. Pagina 15 del Fatto Quotidiano: un'agenzia dell'Assemblea regionale ha sprecato oltre 20 milioni di euro assumendo 160 operatori del 118 per fare che? Per stare a casa. Oh, comodi, belli lì sulla poltrona. E si sono beccati pure il premio annuo di produzione. Non so di che, di produzione di melanzane forse, in cucina. Comunque, pagina 15 del Fatto, Giuseppe Lobianco. I numeri sono da capogiro, le logiche surreali, ben oltre Pirandello. I barellieri erano troppi rispetto alle ambulanze, e così per 2 anni la Regione Sicilia ha pagato a vuoto in media 160 dipendenti assunti dalla società Seus, che gestisce il servizio 118, che invece di lavorare stavano a casa. Costo 9 milioni di euro. Per la Sicilia la loro inattività è costata altri 3 milioni di euro, visto che nessuno ha pensato di metterli in ferie, e non lavorando hanno maturato 274.000 ore di ferie non godute. Siccome un premio di produttività poi in Sicilia non si nega a nessuno, oltre a essere pagate per non lavorare, per le ferie non godute, ciascuna di queste persone percepiva anche un assegno di 900 euro l'anno, per un costo complessivo di circa 1,3 milioni di euro. Questa è l'ultima denuncia fatta dal presidente Crocetta sugli sprechi siciliani. La relazione del comitato di sorveglianza della Seus, società partecipata della regione, quel carrozzone clientelare con 3.100 lavoratori inventato ai tempi di Cuffaro, che nel giro di pochi anni ha raddoppiato le ambulanze da 157 a 281 e assume senza concorso amici e clienti dei politici della maggioranza di centrodestra, utilizzando per la formazione professionale di barellieri autisti il CHAPI, un ente finito nel mirino della procura per una mega truffa con arresti di imprenditori e funzionari. E vabbè, e mettila lì, Sicilia fantasia, la regione pagava per non lavorare oltre 20 milioni di euro. Evviva! A proposito di mani strette sul volante, continuando a tenerle, ci sono due notizie su Corriere e La Stampa relative a presunte, per carità, non c'è neanche indagine in corso, ma ci sono delle indagini, ma non riguardano le persone che vengono citate dai giornali. Già questa è un po' una stranezza, però ci sono delle indagini su alcuni soldi, 32 milioni per la precisione, riconducibili per esempio ai funzionari del Montepaschi, altri personaggi un po' più famosi, VIP, che sono stati scovati a San Marino. E allora i nomi sono quelli che finiscono sui giornali, da Zucchero, il cantante, al papà di Rossi, Valentino Rossi. I soldi finivano a San Marino, per esempio Fulvio Fiano a pagina 16 del Corriere. La banda del 5% di Montepaschi, prima ancora che la fama giudiziaria la raggiungesse per il buco nei conti, era un cliente di spicco del portafoglio del conte romano Enrico Maria Pasquini. Grazie a lui e alla San Marino Investimenti aveva trasferito all'estero 32 milioni di euro, 13 dei quali del solo Alessandro Toccafondi, lo ex numero 2 dell'area finanziaria. Questo Pasquini aveva 1460 clienti, tra cui Zucchero, l'industriale dei salumi Levoni, quello delle cucine Berloni, delle acque Olivete Rocchetta, De Simone Nichesa, il re della logistica Pierino Tulli, il commercialista Marco Iannilli, uomini dello sport come il papà di Valentino Rossi, Graziano, il presidente del Cesena Calcio Campedelli, quello del Bologna Gazzoni Frascara, calciatori come Ambrosini Abbiati del Milan, la showgirl Belen Rodriguez, il procuratore figlio dell'ex città nazionale Marcello Lippi, Davide, per carità, scrive il Corriere come la Stampa, su questi ci sono indagini, cioè si sta approfondendo, non sono indagati al momento, ma anche la Stampa dedica una pagina a questo, riciclaggio tra Italia e San Marino con i miliardi di manager e VIP. Ci sono anche le cifre, il padre del motociclista Valentino Graziano, Rossi avrebbe portato con 4.500.000 euro, Zucchero 400.000 euro, il titolare dell'acqua Oliveto Rocchetta 6.400.000 euro, Antonio Berroni 6.700.000 euro. Queste sono almeno le cifre che vengono citate da Guido Ruotolo sulla Stampa a pagina 17. Oh, a proposito di temi affini, parlano Dolce e Gabbana, due interviste al Corriere della Repubblica. Sapete che dopo le parole dell'assessore al Comune di Milano D'Alfonso, che ha detto: qualora stilisti come Dolce e Gabbana dovessero chiedere spazi pubblici, il Comune dovrebbe chiudere loro le porte, non possiamo farci rappresentare nel mondo da evasori. Apriti cielo, è partita una diatriba infinita tra Dolce e Gabbana e il Comune di Milano, con la chiusura e la serrata anche di 3 giorni da parte di Dolce e Gabbana dei loro negozi a Milano. Ora parlano l'intervista per esempio a Gian Antonio Stella del Corriere della Sera, un'intera pagina 23. Non ci stiamo nella parte dei ladroni, se ci fanno la multa da 400 milioni di euro chiudiamo azienda. Intanto dicono Dolce e Gabbana: noi parliamo per noi, vi pare possibile che per gli stessi identici fatti possiamo essere assolti nei processi penali e condannati in quelli tributari? Noi non siamo pazzi, noi facciamo vestiti. Come possiamo accettare di essere bollati come evasori? Sentite Gabbana: io per esempio ho una barca, si chiama Regina d'Italia, non la porto mica in Francia o in Croazia. Oppure Dolce, casa mia intestata a Dolce Domenico, nato a Polizzi Generosa, mica vingo di vivere in Svizzera, a Monte Carlo, le mie residenze sono sempre quelle, Polizzi Generosa, Palermo, Milano. Che ci importa di eludere il fisco? Fino al 2004 avevamo tutto in comunione dei beni, nonostante dal 2000 non fossimo più fidanzati. Se fossimo attaccati ai soldi, lei pensa che avremmo tenuto i conti e l'azienda insieme per 4 anni dopo la nostra separazione? Che ce ne facciamo dei soldi? Ce li portiamo nella tomba? Insomma, si difendono così, dicendo praticamente dei soldi non ci importa nulla. E alla domanda perché avete messo il vostro marchio in Lussemburgo, risponde Gabbana a Gian Antonio Stella: scusi, noi siamo un marchio mondiale, non è che possiamo aprire in Cina e in Brasile appoggiandoci alla cassa rurale di Rogoredo. Un'azienda che opera a livello internazionale, a società internazionali, ovvio, mica era un'operazione illegale, era tutto trasparente. Ma quali scatole cinesi? Ecco qua, tutti fanno vedere le carte, insomma, diciamo che si difendono dicendo appunto: ma cosa vuole che ci importa e cosa ce ne facciamo dei soldi? La grana nasce, scrive il Corriere, perché la fidanza dice che la stima vostra era bassa di guadagni, che valeva molto di più, per esempio, la vostra azienda valutata 360 milioni. si presume, ed ecco qui Gabbana, ecco si presume che Domenico e Stefano si droghino, si presume che lavorino in ufficio completamente nudi. Cosa significa, scusi? Chi lo presume? Noi non ce la siamo fatta in casa questa valutazione, abbiamo chiesto alla PricewaterhouseCoopers. Loro quante aziende mondiali hanno monitorato per presumere? Loro sono quelli della Guardia di Finanza. Non si lanciano accuse così su supposizioni. E poi ancora gli stilisti si difendono dicendo: se ci confermano la condanna a 400 milioni di multa anche negli altri gradi di giudizio, chiudiamo. Cosa vuole che facciamo? Chiudiamo, non saremmo in grado di resistere. Impossibile. Abbiamo messo in conto anche di andarcene, si fanno tanti pensieri, addirittura all'estero ci chiamavano i nostri colleghi stilisti dicendo: ma cosa fate? Vi mandano in carcere, abbiamo subito un danno di immagine clamoroso. E poi Dolce dice: certo, io forse non avrei reagito come Gabbana dicendo fate schifo con quel tweet al comune di Milano, avrei scelto parole diverse. Comunque l'accusa di infedele da dichiarazione dei redditi, siamo stati assolti per quella contestazione tributaria nel penale, questo addirittura dopo che il reato era stato prescritto. Più di così, dice Gabbana, che poi chiude: col comune di Milano non ce l'abbiamo, ce la siamo presa con l'assessore. Chi mai gli aveva chiesto qualcosa? Che motivo aveva per tirarci in ballo? E alla domanda finale di questa lunghissima intervista: quindi incontrerete il sindaco di Milano Pisapia? Dolce e Gabbana rispondono: al mio paese si dice ogni fuoco cenere diventa. Come dire, la situazione si può anche ricomporre. E insomma si difendono così Dolce e Gabbana, le nostre barche con bandiera italiana ci accusano di evadere. Non ci stiamo dalla parte dei ladroni e se ci confermano la multa noi chiudiamo le aziende. Ecco Alessandro Milan che legge i giornali come nessuno al mondo sa leggerli. E allora siamo qui alle 7:34 minuti. Devo dare una precisazione perché mi scrivono via SMS due ascoltatori, quando ho letto i titoli, forse ce la faccio anche ad approfondire, quello del Fatto Quotidiano che sulla vicenda Shalabayeva intervista il ministro della giustizia della Repubblica Centrafricana, e in due dico: ma come centrafricana? Uno mi scrive addirittura: ignorante, il Kazakistan sta in Asia, ma lo so, ma anch'io, guardate che quando ho letto il Fatto Quotidiano ho avuto un attimo, barcollavo in redazione, mi dice: ma che c'entra il ministro della giustizia della Repubblica Centrafricana? È così, perché questa signora Shalabayeva aveva un passaporto della Repubblica, diplomatico della Repubblica Centrafricana, no? Centrafricana, sì, del centro dell'Africa, la Repubblica Centrafricana. E al che anch'io e questo ministro della giustizia dice: sì, era un passaporto validissimo, quindi nonostante in Italia l'abbiano giudicato un passaporto farlocco. Si infettisce il mistero kazako, Allora, intanto voglio partire dalla politica. Oggi Giorgio Napolitano, capo dello Stato, prende carta e penna e scrive una lettera al Corriere della Sera. È importante perché ieri Fausto Bertinotti, ex presidente della Camera, aveva scritto al Corriere dicendo: caro presidente, lei non può congelare d'autorità una delle possibili soluzioni al problema del governo del paese, quella in atto, come se fosse l'unica possibile. Sapete che ci sono state le accuse, no, di essere Re Giorgio quando ha detto non facciamo cadere il governo Letta o se no ci sono c'è il disastro all'orizzonte. Ebbene, oggi Giorgio Napolitano, la lettera in prima del Corriere poi continua a pagina 32, il titolo è: il Parlamento è libero di decidere senza danneggiare la democrazia, scrive il capo dello Stato. Non posso certo congelare né blindare un governo ancor fresco di nomina, che è, scrive Bertinotti, solo una delle possibili soluzioni al problema del governo del paese. Ma c'è bisogno di ricordare l'insuccesso del tentativo dell'onorevole Bersani, che ebbe da me dopo le elezioni di febbraio l'incarico senza alcun vincolo o limite di esplorare la possibilità di una maggioranza parlamentare diversa da quella che è stata poi posta a base del governo dell'onorevole Letta? E i successivi e più recenti sviluppi politici hanno forse fatto delineare quella possibilità di cui l'onorevole Bersani dovette registrare l'insussistenza? Dopo queste domande retoriche, Napolitano scrive: comunque nessun congelamento, ovvero impedimento, parole grosse, alla libertà dialettica e democratica. Il Parlamento è libero in ogni momento di votare la sfiducia al governo Letta, ma il Presidente ha il dovere di mettere in guardia il Paese, le forze politiche, rispetto ai rischi e contraccolpi assai gravi. In primo luogo sotto il profilo economico e sociale che un'ulteriore destabilizzazione e incertezza del quadro politico istituzionale comporterebbe per l'Italia. So bene che in caso di crisi resta il ricorso al voto popolare, ma di azzardi la democrazia italiana ne ha vissuti fin troppi. Chiude la lettera Napolitano scrivendo: si comprenderà che da presidente, guardando anche a decenni di vita repubblicana, io consideri il frequente facile ricorso a elezioni politiche anticipate come una delle più dannose patologie italiane. Insomma, Napolitano dunque scrive questa lettera importante dicendo: non ho blindato nessuno, ma è mio dovere mettere in guardia in caso di crollo del governo di cosa succede. Allora, a proposito di politica, la notizia politica del giorno certamente è il fatto che il decreto del fare è stato blindato perché mancano pochi giorni alle vacanze, alla chiusura del Parlamento, ci sono tanti provvedimenti da approvare, quindi si ricorre allo strumento antico e vecchio della fiducia, classico per scongiurare un unico emendamento, maxi emendamento. Il decreto passa oggi alle 11:30, nonostante il Movimento 5 Stelle prepari o ostruzionismo, comunque ha detto ci opporremo a questo modo di fare. Questo decreto, il governo blinda il decreto del fare, pagina 4, Eugenio Bruno, sono sul Sole 24 Ore. Per la seconda volta in un mese il governo Letta è costretto a blindare con la fiducia un decreto in scadenza, già accaduto il 20 giugno scorso sul testo per le emergenze ambientali, ora tocca al decreto del fare, voto fissato per stamattina alle 11:30. Cosa c'è in questo decreto del fare? Tante cose che sono state cambiate all'ultimo momento, tra l'altro la liberalizzazione ripristinata per esercenti negozi nel wifi, con l'approvazione di un emendamento dei relatori l'offerta di accesso internet wifi non richiederà più l'identificazione personale degli utilizzatori. Decadono perciò gli obblighi interrotti precedentemente per gli esercenti che offrono connessione a internet senza fili nel pubblico, e quindi questa è un'apertura sul wifi. Però questa buona notizia è stata in parte vanificata dalla decisione di ridurre di 20.750.000 euro gli stanziamenti per la banda larga, dunque diminuiscono stanziamenti per la banda larga. Poi, tra gli altri ritocchi, van segnalati il finanziamento di 5 milioni per le iniziative agroalimentari collegate a Expo 2015, gli sgravi contributivi per le cooperative agricole, l'esenzione dall'imposta di bollo dello 0,15% per le comunicazioni agli investitori dei piani di azionariato diffuso. C'è la vicenda dell'Expo, la flessibilità dell'Expo. C'è il tetto ai manager, cioè esclusa l'estensione del tetto agli emolumenti agli amministratori delle società non quotate che svolgono servizi di interesse generale come Poste, Ferrovie e ANAS. Tra l'altro il Ministero dello Sviluppo Economico in una nota ha difeso questa norma dicendo che introduce elementi di uniformità e di regolazione nella determinazione dei compensi per i manager pubblici. Cambia anche il regime di incompatibilità tra la carica di parlamentare o ministro e quella di sindaco, che non varrà per i sindaci di comuni con popolazione tra 5 e 15 mila abitanti. Comunque, insomma, ci sono varie novità nel decreto del fare che dovranno essere approvate oggi alle 11:30 al Senato e poi alla Camera. Domani il decreto dovrebbe essere convertito con la fiducia. L'altra notizia è quella che riguarda il mondo del lavoro, politica e lavoro, cioè la flessibilità. Un'intesa sindacale per avere una contrattazione di secondo livello, una maggiore flessibilità e dunque 800 assunzioni in più per la vicenda Expo. Stiamo parlando di una cosa annunciata trionfalmente sui giornali, importante, un primo passo per 800 assunzioni. 800. Davide Colombo, pagina 5 del Sole, un accordo di secondo livello nel nome della maggiore flessibilità targato Expo 2015. Questo è l'oggetto dell'intesa annunciata ieri dai vertici della società che dovrà gestire l'esposizione universale di Milano e i rappresentanti lombardi di CGIL, CISL e UIL. Soddisfatto il ministro Giovannini, soddisfatti tutto. Insomma, il focus del protocollo è puntare sull'apprendistato, 340 assunzioni previste, sui contratti a termine, 300 addetti che saranno individuati almeno per il 10% della lista di mobilità e da ex lavoratori disoccupati, e stagisti 195. Le prime assunzioni partiranno già quest'anno per arrivare alle circa 800 previste verso il 2015. Ripeto, 800. No, perché uno, per carità, una buona iniziativa, sono 800 posti di lavoro. Poi uno va sulla stampa, pagina 3, l'articolo di Rosaria Tallarico, e scopre questo titolo: nel 2013 il sistema Italia perderà 250.000 posti di lavoro. Allora trova 800 da una parte, 250.000 posti di lavoro perduti nel 2013. La stampa: meglio l'agricoltura, l'unico settore nel quale cresce l'occupazione dei giovani, con un aumento record del 9% nelle assunzioni di under 35. Per il resto, nel 2013 si sono persi 250.000 posti di lavoro. 750.000 assunzioni previste dalle imprese non compenseranno infatti quasi 1 milione di uscite tra pensionamenti, licenziamenti e cessazioni. Certo, ci sono in questi 250.000 anche i pensionamenti, persone in pensione, ma licenziamenti e cessazioni sono anche questi molto molto corposi, e dunque questo è un dato di fatto. L'altro tema economico che tiene banco è quello della casa. Allora, il Sole 24 Ore oggi inizia con questa campagna per far capire quotidianamente quelli che sono i temi legati alla casa. Sarà un'estate nella quale si deciderà l'IMU e non solo, la riforma del catasto, eccetera. IMU, catasto, condominio, la lunga estate degli immobili inizia oggi. A pagina 2-3 trovate i primi dettagli di tutto quello che sono le situazioni che potranno modificarsi da qui a quest'estate. Lo fa anche il Corriere della Sera, pagina 3, con Mario Sensini, raccontando reddito, esenzioni, prezzi di mercato, ecco tutti i piani dei partiti per la nuova IMU. I piani, perché tutto è rinviato ovviamente in autunno, ma le idee di cosa prevedono PD, PDL, Scelta Civica sull'IMU potete trovarlo sul Corriere a pagina 3. Per tutto il resto, la politica, a parte il decreto del fare, cosa fa? La legge sull'omofobia si discute, ma potrebbe essere rinviata. Quando? In autunno. Omofobia, il PDL punta al rinvio. La priorità è l'economia. Questo è il titolo, per esempio, di pagina 5 del Corriere della Sera. Omofobia, i falchi PDL vogliono affossare l'intesa, pagina 3 del Secolo XIX. Oppure i soldi ai partiti, il finanziamento pubblico ai partiti. Rinvio. Soldi ai partiti, probabile lo slittamento, pagina 6 di Repubblica. Ma va, ma no, ma dai. Ieri Enrico Letta ha detto ancora: non si può scherzare su questo. Il governo pronto, cioè il governo, no? I partiti pronti al rinvio. Oggi Enrico Letta si presenta alle 20 davanti a tutti i deputati e onorevoli senatori del Partito Democratico, del suo partito. La roadmap del Premier, secondo la stampa, è: ora basta con i rinvii. Titolo di pagina 7 della stampa. Giuro che un piccolo sorrisino mi è venuto nel leggere il titolo, cioè di sconforto. Non sorrisino di compiacimento, ma di sconforto. Ora basta con i rinvii. Poi uno legge pagina 6, la legge sul finanziamento dei partiti, verso il rinvio. Ma la tranche il 31 luglio la beccano. La beccano, e come? 91 milioni di euro se li spartiscono questi, al 31 di luglio. E legge sull'omofobia, uno può essere a favore, contrario, ma intanto si rinvia, la mettiamo con gli F-35, l'IVA, l'IMU, il catasto, la riforma del catasto, le cartolarizzazioni, le liberalizzazioni, l'abbattimento del debito, la spending review, tutti in autunno. Alessandro Milan, il panettiere dell'informazione. E allora, intanto rinvio, che succederà invece il 30 luglio? Il giornale oggi inizia un countdown, meno 6 alla sentenza di Silvio Berlusconi, la Cassazione, sempre che non venga poi rinviata. Il verdetto meno 6, c'è anche un editoriale del direttore Alessandro Sallusti in prima pagina, che continua a pagina 3. E tra l'altro profila questo scenario Sallusti: penso che in caso di condanna tutti noi liberali avremmo a nostra volta il diritto dovere di far sentire forte, nei modi, nelle forme che riterremo, le nostre ragioni. Non ho idea di cosa potrebbe decidere il PDL, non credo che la questione centrale sia se tenere in piedi questo governo o no. Dobbiamo farci sentire, dirlo forte e chiaro. Questo scrive Sallusti. Berlusconi, in caso di condanna, il problema non sarebbe suo, ma sarebbe nostro dei 10 milioni di elettori liberali che lo hanno votato. Insomma, Sallusti comincia un po' a far aumentare la temperatura, no? Su questo, dal punto di vista mediatico, su questa attesa. Per la verità, in un retroscena di Repubblica, pagina 9, Berlusconi, che ha annunciato si tornerà a Forza Italia, ha detto, secondo Repubblica, il governo deve durare 2 anni, io non lo farò comunque cadere. Vabbè, c'è questa attesa per la Corte di Cassazione il 30 di luglio. La Corte di Cassazione invece si è espressa sulla vicenda Fiat, o meglio, si è espressa, sono state depositate le motivazioni della sentenza che ha condannato Fiat per la questione sindacale contro la FIOM. Leso il pluralismo sindacale, questo è il senso che ha anche il titolo di pagina 6 del Sole 24 Ore nell'articolo di Matteo Meneghello, uno dei motivi per cui è stata condannata Fiat nelle relazioni industriali con la FIOM. Il manifesto mette la notizia comprensibilmente a pagina 5 con ampio risalto. Fiat ha limitato la libertà, con l'articolo di Antonio Sciotto che scrive: ecco le motivazioni della sentenza che 20 giorni fa ha dato ragione alla FIOM. E la reazione di Marchionne è stata dura. La domanda: valutiamo la nostra presenza in Italia, la possibilità di mettere la sede legale in Olanda, dice Marchionne, beh, è un qualcosa che non è escluso. Niente, sulla vicenda kazaka non è che ho molto tempo, posso solo accennare appunto che il Fatto Quotidiano intervista, all'inizio sembrava una cosa surreale, ma è così, il ministro alla giustizia della Repubblica Centrafricana, tal signor... vai a beccarlo adesso, come si chiama, come diavolo si chiama questo... Il ministro, vabbè, insomma, Arsène Sendè, ecco, il ministro alla giustizia della Repubblica Centrafricana, intervistato da Marco Filoni e Letizia Mesciali. Parola di ministro, quel passaporto è buono. Arsène Sendè parla al Fatto Quotidiano perché la signora Shalabayeva aveva un passaporto diplomatico della Repubblica Centrafricana, giudicato una taroccata dalla polizia italiana, dalle autorità italiane. In realtà il ministro della giustizia di questo paese africano dice: era un rapporto fatto dal mio predecessore ma valido. C'è un tema sulla questione degli immigrati. Libero oggi titola così, in maniera un po' populista, se volete: provate a cacciare questi, legata alla vicenda Shalabayeva, cioè cacciamo la Shalabayeva, invece ci sono decine di pericolosi clandestini, leggo in prima di Libero, colpiti da provvedimenti di espulsione che restano in Italia e commettono crimini. Per esempio la storia, pagina 2, preso per una rapina in villa, era già stato espulso 3 volte, la storia raccontata da Alessandro Gonzato, un albanese che è stato fermato nel Padovano con già 3 provvedimenti di espulsione. Maurizio Belpietro fa l'articolo: altro che kazaki, mandate via i clandestini delinquenti. E Libero e tutti gli altri giornali mettono anche in rilievo la vicenda invece di Forte dei Marmi, uno dei luoghi più gettonati dagli italiani in Versilia in questo momento in vacanza. Il titolo di Libero è: come umana la sinistra. La vicenda è del pontile di Forte dei Marmi, dove è stata montata da qualche giorno una rete. Perché c'è la polemica? Perché il sindaco è del PD e quel pontile veniva utilizzato molto spesso dai venditori ambulanti che girano per le strade durante le ore di maggiore caldo per andare all'ombra sotto il pontile e riposarsi, ristorarsi un pochettino. Ora non è più possibile perché è stata messa questa rete. Il sindaco, anche su Repubblica, Forte dei Marmi, divieto di ombra per gli ambulanti, c'è la foto del pontile così murato con questa rete. A pagina 17 di Repubblica, un'intera pagina, il sindaco in realtà dice: era una rete prevista un anno fa, la burocrazia è lenta anche per i comuni. Se la rete di protezione aprirà l'ennesima polemica estiva contro il Forte, sono pronto a offrire il petto, sparatemi pure, ma non considero una colpa difendere il decoro di un luogo che ha fatto della qualità la sua carta vincente. Insomma, polemica su questo, polemica anche su un altro sindaco. Prima del premio la carta costa finale, un sindaco di... Sanremo, che cosa avrebbe fatto il sindaco di Sanremo secondo una denuncia di un esponente del Partito Democratico, il sindaco Zoccarato, mi sono perso l'articolo, eccolo qua, l'ho trovato l'articolo, avrebbe preso a calci un clochard, un barbone, un uomo che chiedeva l'elemosina. L'accusa del PD Faraldi, che sta all'opposizione dice: ti ho visto, hai preso a calci un clochard per mandarlo via. Era in via Matteotti, 36 anni, Alexi, rumeno, l'hai preso a calci. E lui, il sindaco, si difende dicendo: no, ho solo spostato il suo cestino dove raccoglie l'elemosina con il piede. Insomma, che ha fatto? Calci a clochard, sindaco sotto accusa, il sindaco di Sanremo. Oh, ha preso a calci un clochard? Dice di no. Staremo a vedere. Siamo qui al premio La Carta Costa e siamo su Repubblica e siamo ancora una volta per il Royal Baby. Oggi non posso non darlo a Concita De Gregorio. Non posso non darlo a Concita De Gregorio. Sentite il potere del sorriso, cari ascoltatori. Concita De Gregorio, i bellissimi duchi di Cambridge si amano con evidenza. E basterebbe questo a dire dell'incanto collettivo che i gesti semplici e dettati dall'amore esercitano sulle moltitudini. Gesti semplici, qualcosa che somiglia a quel che accade a ciascuno di noi quando accade. Il Papa che sale le scale dell'aereo portando la sua valigia, il futuro re d'Inghilterra che carica il piccolo principe in macchina nel seggiolino, come tutti, e nonostante una condizione che permetterebbe di evitarlo, volendo, perché se sei abituato così a portare la tua valigia, fai così, anche se sei il Papa o il prossimo re. Inizia così quest'articolo in cui parla dell'amore, che si vede che si amano, e si vede che la carta costa. Cara Repubblica e cara Concita De Gregorio. 24 mattino. Sono le 8 e 16 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan. E allora eccoci qua, di cosa vogliamo parlare oggi? Beh, intanto vogliamo sfatare subito un mito. Quando si parla di dipendenti pubblici in Italia, dipendenti pubblici, non è vero che in Italia ci siano troppi dipendenti pubblici se comparati per esempio a paesi come la Germania. Se guardate i dati dell'Eurispes, in Germania c'è un cittadino, cioè ogni, scusate, 54 cittadini su 1000 sono impiegati nella pubblica amministrazione. Noi in Italia siamo a 58 cittadini su 1000, quindi non è che siamo molti di più. Pensate che addirittura in Svezia, la Svezia che viene sempre citata come emblema dell'efficienza amministrativa, sono 135 i dipendenti pubblici ogni 1000 abitanti, quindi molti di più che in Italia. Tra l'altro in Italia sono calati negli ultimi, sempre dati Eurispes, negli ultimi 10 anni, dal 2001 al 2011, i dipendenti pubblici sono calati di 368.000 unità, erano 3.209.000 nel 2001, sono 2.840.000, quindi non è vero che siano troppi i dipendenti pubblici, e non è questo il problema semmai è l'efficienza della pubblica amministrazione. Il problema è quando uno legge una notizia come oggi sul Fatto Quotidiano: Sicilia fantasia, la regione pagava per non lavorare, un'azienda regionale ha pagato 160 dipendenti della società che gestisce il servizio 118 per stare a casa, siccome erano troppi rispetto al numero delle ambulanze e delle barelle da portare, stavano a casa e venivano pagati dalla regione, hanno preso anche il premio di produttività. Sentite bene. Oppure fa specie quando si leggono notizie come l'appello lanciato dal presidente della commissione bilancio della regione Sicilia, l'onorevole Dina, che ha detto: caro Stato, ci devi dare 130 milioni di euro, se no non sappiamo come pagare i dipendenti pubblici. Sono cose veramente che lasciano un po' basiti. Allora, tra l'altro, il presidente della commissione bilancio Dina, che dovrebbe essere ai nostri microfoni, ma al momento ha il cellulare spento, e starà reperendo i fondi per pagare i dipendenti pubblici della regione Sicilia, non lo so. Comunque questa frase ha fatto molto arrabbiare l'onorevole della Lega Gianluca Buonanno, che saluto. Buongiorno onorevole. Buongiorno a voi. Sì, che è un po', lo sapete, anche il Pierino del Parlamento, ogni tanto dice qualche boiata, possiamo dirlo, onorevole Buonanno? Dipende dai punti di vista. Sì, vabbè, diciamo, è uno che quando non le manda a dire, no? Però le abbiamo chiamato un altro che non le manda a dire, che spesso chiamiamo, il nostro Alberto Forchielli, che è presidente dell'Osservatorio Asia, che saluto. Forchielli, buongiorno, ben ritrovato. Salve. Allora, tre giorni fa Forchielli ha detto questa frase che mi è rimasta scolpita e sulla quale vogliamo approfondire, cioè questa: in Italia sapete qual è il problema per cui non si decide? È perché in Italia chi è che decide chi va al potere? Lo decide soprattutto la parte improduttiva del paese, vale a dire pensionati e dipendenti pubblici. Oh, il clima è questo. Allora, buon anno, intanto lei perché si è arrabbiato quando ha letto questa cosa del presidente della commissione bilancio Dina? Perché facendo l'amministratore locale da 20 anni, e quindi ne ho visto un po' di tutti i colori, sentire ogni volta piangere da parte di una regione che dipendenti pubblici a gogo, ma qualitativamente ha dei grossi problemi, ogni volta che c'è uno scandalo, non dico sempre, ma molto spesso ricade proprio su quel territorio, c'è da pensare. Lei ha citato il 118 notizie di, sì, di ieri. Io ricordo quando fecero il concorso per assumere gli autisti dei pullman di una città, mi pare Catania, e poi scoprirono che non avevano neanche la patente per poter fare gli autisti dei pullman, quindi avrebbero poi fatto un corso specifico per fargli prendere la patente. Insomma, ci sono tante situazioni che chi si comporta bene si sente preso in giro. Cioè, noi tiriamo la cinghia per cercare di stare dentro i parametri, per stare dentro il patto di stabilità, per cercare di arrivare al risultato, e poi c'è un'altra parte del paese che se ne frega altamente di tutte queste cose, e poi alla fine deve esserci sempre il pantalone che paga. Cioè, lei la mette così, nord-sud, giusto per essere chiaro? Ma guardi, nord-sud... sì, però nello stesso tempo mi rendo anche conto che non è che è tutto omologato, però molto spesso il nord fa una determinata cosa e il sud ne fa l'esatto contrario. Mm. Allora, questo è un punto, però lei ha anche detto in Sicilia ormai ci sono più dipendenti dei tombini, solo che i dipendenti non sono produttivi mentre i tombini servono. In effetti, quello che dicevo, la qualità anche dei dipendenti è importante, cioè uno può avere 100 dipendenti, uno ne ha 10, però i 10 producono più di 100, quindi bisogna anche vedere come l'hanno preso. Cioè, il sistema clientelare è un sistema clientelare che purtroppo paghiamo per decenni di questo sistema. Nell'ambito scolastico, faccio un altro esempio, dove ci sono tante persone che non servono, però non c'è mai nessuno che fa l'autocritica, cioè tutti criticano l'orto del vicino, ma non criticano mai se stessi, e questo porta a niente. Cioè, il federalismo fiscale, quello che la Lega ha diciamo così, sempre chiesto, è secondo noi veramente un qualcosa che può ribaltare la situazione. Però sta cosa del federalismo fiscale, lo sai, lei, la Sicilia, sì, che è veramente l'unica regione che si tiene il 100% delle tasse. Sì, sì, questo è vero. Però federalismo fiscale intanto è quello che ha portato più tasse locali. E poi dice chiesto, però uno dice sempre, eravate stati al governo, come forza di governo per tanti anni, si poteva purtroppo fare. Purtroppo non avevamo il 50,1% per poter comandare come dicevamo noi. Però il federalismo fiscale non è vero che ha portato più tasse, perché come no? Negli ultimi 30 locali, anni, negli ultimi 30 anni dati certificati anche negli ultimi giorni sono capito, le tasse locali sono. Sì, ma se lei è abituato e gli arrivano X soldi e poi non li arrivano più, noi qua per fare i bilanci dei comuni per i sindaci che sono 8.103 nel nostro paese, ma se tu devi fare il bilancio di previsione e il bilancio di previsione riesci a farlo quasi alla fine dell'anno perché non sai neanche i soldi che ti dà lo Stato, e poi in un anno ti cambia la versione 3 volte, sì, non sì, sai che fine fa l'IMU prima casa, che fai? Non sai... Metti le tasse, appunto, metti le tasse, cioè, noi siamo dei maghi, non siamo no, veramente... No, ma questo sì, però è quello che ha detto anche ieri Fassino, cioè sono diminuiti gli ingressi dallo Stato, i trasferimenti dallo Stato agli enti locali. Il risultato, gli enti locali cosa devono fare? Mettono le tasse sui cittadini. Ma non è che quei soldi che lo Stato non ha dato agli enti locali ce li restituisce a noi cittadini, quindi noi ce lo troviamo doppiamente in quel posto, ecco, per essere eufemisticamente un po' scorretti. Però buon anno. Allora, intanto non lo so, noi continuiamo a chiamarlo l'onorevole Dina, presidente della Commissione Bilancio alla Sicilia. Abbiamo 2 cellulari e un numero fisso, tutto spento, non lo so, tutto introvabile. Però Alberto Forchielli, allora le domande sono varie che vorremmo farle. Intanto lei frequenta anche molto la Cina, la Germania, gli Stati Uniti, quindi ha un punto di osservazione molto interessante. Il primo dato, in Germania appunto non ci sono più dipendenti pubblici che da noi in proporzione alla popolazione. E allora qual è la differenza? Sì, no, è un problema di produttività e di resa, perché nei conteggi del PIL la parte pubblica del paese non viene conteggiata in base all'output che produce, ma viene semplicemente aggiunta al costo. Se noi perché è molto difficile per un settore pubblico definirne la produttività, ossia quante pratiche sbriga il comune di, quanti malati l'ospedale X riesce a guarire in. Per cui tutti i dati di PIL europei ma anche mondiali sono falsati dal fatto che il settore pubblico ha il costo. Io ritengo che in base alla resa il settore pubblico italiano sia abbastanza sia proprio al fondo del barile. Sì, proprio devo dire, anche perché mancano dei meccanismi di governance. Il settore pubblico ha una presenza sindacale molto molto forte che ne preclude sostanzialmente la gestione, non si possono fare promozioni per merito di fatto, non si possono dare bonus, non esiste questo tipo colpa di dei sindacati, dice, colpa dei sindacati. Beh, sì, è tutto un pateracchio, cioè, alla fine io ne faccio un grande problema di equità, perché da un lato c'è gli imprenditori e le imprese piccole e medio grandi e gli imprenditori individuali che tirano avanti la baracca in mezzo a mille vessazioni, ossia ipertassati, senza servizi, burocrazia asfissiante. Poi c'è i dipendenti privati che ormai vivono nell'angoscia, perché ormai vengono licenziati come mosche, non c'è niente da fare, capito? Attraverso ristrutturazione, anche se l'articolo 18 non è stato abolito, le ristrutturazioni aziendali vanno e non c'è niente da fare, le aziende chiudono e buonanotte, le multinazionali chiudono e buonanotte. E poi hai questa enorme massa di persone, dipendenti pubblici, che stanno tranquilli, sono assicurati. In realtà, come se nulla succedesse, ecco. Anche poi in realtà non è così. Ma infatti non è così, perché c'è il turnover, perdono anche loro. No, te lo spiego perché non sarà così. Perché? Guarda Detroit. Appunto, a Detroit è fallita, no, la città. Sì, perché è fallita? È fallita perché mano a mano, in una situazione di questo genere, la parte produttiva del paese abbandona. Ossia, stanca del disservizio, stanca della burocrazia, stanca dell'ipertassazione, abbandona. La base fiscale scende e poi non ci sono più soldi, non solo per i dipendenti pubblici, ma per anche le loro pensioni. Questo sì, però Forchia lei 2 giorni fa qua ha detto a questi microfoni questa frase, insomma, che è forte, dire in Italia non si fa nulla perché chi decide è la parte improduttiva del paese, cioè i pensionati e i dipendenti pubblici. È vero. Che adesso l'ascolteranno, saranno offesissimi. È vero, se lei nota... Sono pochissimi politici che osano dire, che osano sfidare il potere dei sindacati nel pubblico, che osano proporre ristrutturazioni pesanti al settore pubblico, che osano dire che la produttività dei dipendenti pubblici è vergognosa, a parte casi, io non voglio, poi sai, ci sono casi in alcuni ospedali, sono veramente eroi, i carabinieri si fanno in quattro, adesso bisogna, perdonatemi, io non riesco ossia dovete anche capire che devo semplificare. Sì. Quindi voglio dire, c'è un'enorme massa di votanti, che tenete presente perché per un votante ce ne sono 2 o 3 intorno, capito? Sì. Che impediscono il cambiamento, per esempio le poste non si sono mai privatizzate perché è una massa tale di voti che nessuno può permettersi di mettersi contro tutta la massa dei post telegrafoni. Sì, insomma, c'è il grande esercito di chi vive grazie alla pubblica amministrazione, che non sono solo i dipendenti ma anche i familiari, eccetera. Questo Buonanno lo segue Forchielli in questa idea, no, è che è caduta la linea, insomma, adesso lo recuperiamo. Cioè, in questa idea di ma perché improduttivi Forchielli definisce? A parte che appunto non tutti i dipendenti pubblici, cioè alcune categorie, ma però perché Perché, ossia, le lentezze della burocrazia sono l'ordine del giorno, le vessazioni della burocrazia sono l'ordine del giorno, la difficoltà nel fare le cose in Italia sono l'ordine del giorno, ottenere un permesso è un evento, è una corsa ad ostacoli, ossia non stiamo a, cioè, abbiamo la burocrazia italiana è famosa nel mondo, sì, la vediamo sotto gli occhi di tutti. Buon anno, che abbiamo ripristinato la linea, è riuscito a seguire Forchielli, che dice c'è la parte più improduttiva del paese, è quella che decide, lo segue in questa analisi? Abbastanza. Adesso le faccio un esempio che ho fatto concretamente. Qualche giorno fa io ho presentato lì alla Camera due emendamenti per fare in modo che i professori e le professoresse facessero 15 giorni in più di lavoro nei centri estivi, facendo in modo che i comuni spendano di meno, i genitori non pagano il centro estivo e ci sia più produttività. E si sono arrabbiati molti professori e professoresse, però secondo me invece è una cosa che va incontro ai cittadini, così come ho chiesto che le lezioni private dei professori e delle professoresse vengono fatte negli istituti, così non c'è il nero, devono fare la fattura e una parte di questi soldi rimangono all'istituto. Sono cose tra virgolette semplici e innovative, però poi ci si scontra con un mondo che dice sempre che tutto va male. Ma però non hanno voglia neanche di cambiare. Se danno questi 100 milioni alla Regione Sicilia per pagare i dipendenti pubblici, lei che fa? No, ma è uno schifo, cioè. Allora, innanzitutto in questo paese dovrebbe esserci una parola scritta dappertutto che si chiama meritocrazia. Allora, se uno merita, merita, se uno non merita, non merita. Cioè non è che poi la Sicilia può avere più forestali del Canada, ma dove viviamo? E poi il governo fa un provvedimento, quello che è cosiddetto svuota carceri, dove anche per chi appicca il fuoco, cioè incendi boschivi, e può essere depenalizzato in qualche maniera e quindi non va neanche più in galera. Così come succede tante volte, io do fuoco perché così faccio capire che sono utile, quando invece non è così. È un'Italia che veramente deve essere rivoltata come un calzino. Così come nella sanità, i costi standard, ma li vogliamo mettere? Ma i costi standard, ma se ne parla la venda da 5 anni, ma 5 anni non vogliono, perché comunque c'è tutto un giro dove alla fine bisogna buttare via i soldi. Ma chi non vuole? Cioè io Forchielli non voglio lo faccia la politica, è il sistema politico, però lei ne fa parte, cioè dei tre interlocutori qui. Come se le dicessi che i giornalisti sono tutti cretini, quando invece non lo è. Ma no, ma infatti ho capito, appunto, però allora, il sistema anche in politica non è che sono tutti matti, il problema è che c'è un sistema talmente complicato, incancrenito, dove alla fine è più è complicato e più vivono meglio. Allora, tra tre minuti dopo la pubblicità, con l'onorevole Gianluca Buonanno della Lega e con Alberto Forchielli, presidente dell'Osservatorio Asia, che ci dovrà spiegare anche cosa succede in Cina, dove lui viaggia, in America, dove lui viaggia, in Germania, dove lui viaggia, rispetto a quello che vede quotidianamente qui riguardo al settore pubblico e anche dipendenti pubblici, chiamateci 800 24 00 24. So che molti di voi ci dicono ma insomma voi non tenete conto che il dipendente pubblico, che è magari più tutelato, ha passato un concorso e quindi, avendo vinto un concorso, ha un regime giuridico diverso dal dipendente privato. Chiamateci, dite la vostra, che ne pensate, anche il caso Sicilia, la situazione e anche quello che dice Forchielli. Insomma, qui la parte più improduttiva del paese, i dipendenti pubblici, oltre ai pensionati, decidono chi mettere al potere, perché sono tanti. 24 mattino. Allora, 8:36 minuti, 800 24 00 24, per intervenire in diretta con noi l'onorevole Gianluca Buonanno, deputato della Lega, e Alberto Forchielli, presidente dell'Osservatorio Asia. Forchielli, tutta la volta che la invito, poi molti dicono finalmente uno che parla chiaro, facciamolo presidente, invitiamolo tutti i giorni, eccetera. Non saranno tutti così, c'è anche chi Forchielli le vorrà un po' male. Mi dico di quelle boiate. Per esempio, ecco, cosa succede? Perché ti dice in Germania è diverso? Che cosa? Cioè, se lei entra in ufficio in Germania, cosa succede rispetto in Italia? Mediamente, poi non è sempre così. Cioè, in che cosa è diversa la situazione? Beh, no, prima di tutto trovo qualcuno allo sportello. Poi dopo, quando arrivo allo sportello, so cosa devo portare allo sportello. Perché molte volte in Italia non ti dico cosa devi portare, per cui devi tornare tre volte, capito? Sì. Poi non c'è dubbio che non c'è quel retroterra clientelare che ce lo tiriamo avanti dagli anni 70, per cui sono mediamente più professionisti. E poi sicuramente esistono degli incentivi per i quali, se non c'è una certa resa, possono essere allontanati, perché l'intesa con i sindacati è molto più civile, molto meno controversa. Per cui le pratiche nel pubblico in Germania sono molto semplici, molto dirette. E in Cina, per esempio, in Cina, visto che... Lei... No, in Cina il sistema è completamente diverso, perché i sindaci, i governatori, i segretari del partito non sono eletti, per cui vengono messi lì dal governo e dal partito con degli obiettivi di efficienza. Cioè, per essere promossi devono produrre una certa crescita del reddito, per cui la pressione è tale anche sui dipendenti pubblici che devono emettere le pratiche, che l'efficienza è tale da diventare controproducente, per esempio non ci sono i controlli ambientali, capito? Sì, mettere anche una fabbrica sul tetto, però lì l'efficienza è garantita, perché un sindaco sta lì 3 anni e poi dopo vuol fare il governatore. In quei 3 anni, capito, lui li brucierebbe tutti pur d'ottenere il 12% della crescita del PIL che permette alla sua città di dire: sono stato il più bravo in tutta la Cina dell'Ovest, per cui, capito? Una ricerca all'iperefficienza che può portare anche delle cose distorsive. Ecco, in America li fanno fuori come mosche, nel senso che a seconda delle votazioni, a seconda se è un repubblicano che... arriva repubblicano, propone un taglio delle tasse e allora l'opposizione dice: beh, se tagli le tasse dobbiamo tagliare 68 pompieri, 58 poliziotti, 48 infermieri, per cui è una cosa, sia gli impiegati pubblici sono... non sono tutelati come in Italia, sì, insomma, questa è la lezione. Mi faccio sentire anche qualche ascoltatore, poi torniamo da voi. Giorgia da Roma, Giorgia ci ha chiamato, buongiorno. Buongiorno a tutti. Dica. Mi sentite? Benissimo, dica. Perfetto. Sì, io sono un dipendente pubblico, non specifico per quale ente, comunque un ente di ricerca di Roma. Quello che voglio dire, io lavoro in un servizio che si occupa dell'applicazione della legge Brunetta, quindi la cosiddetta legge che avrebbe dovuto proclamare la meritocrazia. Sì. Siamo un servizio che lavora tantissimo, perché di cose ne ha fatte tante. Il problema è che poi quello che facciamo viene completamente falsato o rivisto dai vari dirigenti e in primis il direttore generale. Quindi l'osservazione che io volevo fare è che è vero che c'è una sacca di dipendenti pubblici che lavora poco, ma anzitutto la nuova generazione di assunti è una generazione che viene da concorsi fatti con tutti i crismi, nel senso che io ho fatto un concorso per cui c'erano più di 150 persone per neanche 30 posti, quindi la selezione è stata veramente vera, mentre magari un tempo non era così. Quindi, secondo voi siamo persone che hanno voglia di fare tanto. Cioè, lei dice il pesce puzza dalla testa. Il pesce puzza dalla testa. Esattamente, cioè noi abbiamo, le faccio un caso, noi quest'anno per la prima volta abbiamo applicato il sistema di valutazione per i dirigenti secondo la legge Brunetta. Beh, secondo calcoli matematici la maggior parte stava sotto la media, e i numeri sono stati rivisti e sono tutti bravissimi, più che bravissimi, tutti eccellenti. Quindi alla fine anche noi siamo molto demotivati ad impegnarci più di tanto. Sì, lei dice, Giorgia, siamo i primi a essere, tra virgolette, vittime anche di questa situazione. Ci mettiamo l'anima e ci impegniamo, eccetera, ma vediamo che dall'alto le cose non cambiano. La ringrazio, vorrei dare spazio anche agli altri. Grazie per la chiamata, Giorgia. Vorrei andare a Bergamo da Giuseppe. Buongiorno, Giuseppe. Buongiorno a tutti. Intanto vorrei dire che sono d'accordissimo con Forchielli, nonostante dica delle cose apparentemente banali, ma dice delle grandissime verità. Io sono un imprenditore di origine siciliana, ho una casa in provincia di Trapani che ho ereditato dai miei genitori. In questa casa assolutamente regolare, con i permessi e tutto, ha un piccolo garage a fianco alla casa dove i tetti erano di Eternit. Sì. Quest'anno ho deciso di sostituire questi tetti, allora mi sono rivolto ad un amico mio architetto al quale ho detto: senti, io non voglio più tenere i giocattoli dei miei bambini, la macchina, l'auto e altre cose lì. Ho detto: guarda Giuseppe, bisogna contattare una società per lo smaltimento di questi rifiuti assolutamente pericolosi e tutto, anche perché è giusto che si faccia così. Allora mi informo, questa società mi chiede un preventivo assolutamente peraltro onesto, poi mi rivolgo al comune, non faccio il nome del comune, ma mi rivolgo al comune e dico: guardi, io vorrei sostituire questi 80 metri quadri di tetto. E che succede? Perché mi dicono non c'è nessun problema, faccia fare una cartina, faccia fare un disegno, presenti tutto, dopodiché fra 18 mesi ci vediamo. Bilancio della situazione. 18 mesi. Ho chiesto alla società, anche perché quando si parla di burocrazia non è un ente reale, noi parliamo con un fantasma, con un qualcosa che è fantastico, astratto, cioè non esiste una persona, esiste un soggetto che dice non dipende da me, dipende da questo, da quell'altro, da questa, da questa normativa. Bilancio, ho tolto l'Ethernet attraverso questa società regolare che mi ha fatto regolare la lettura. Poi ho fatto mettere il tetto nuovo da una società, da una piccola impresa seria, pagando tutto in nero, e cioè non pagando oneri, seppur pochissimi oneri al comune per questo tetto. E questa è la realtà, per cui Forchielli dice delle grandissime verità, questa è la realtà. Insomma, la verità alla fine, lei ha dovuto pagare in nero e fare di... accelerare insomma in qualche modo all'italiana, perché dice se dove aspettavo 18 mesi del comune eccetera, questa è la situazione. Buon anno, lei che da sindaco è uno di quelli, sì. Ma è vero che prendeva i dipendenti che trovava un po' fannulloni, li metteva a fianco a sé in ufficio in castigo, adesso stai lì seduto. Ho fatto anche quello, però ad esempio quello delle macchinette del caffè. C'era una macchinetta di caffè nel municipio di Varallo e c'era sempre un crocchio di impiegati che si trovavano lì in 4, 5, in 6. Io dicevo sempre, ma se uno arriva in ufficio, come diceva prima Forchiede, non trova nessuno, cioè almeno organizzatevi. Allora una volta, due, tre, non l'hanno fatto, ho preso una macchina del caffè e l'ho messa nel mio ufficio. Risultato, perché non c'è scritto da nessuna parte dove stare la macchina del caffè, no? Cappuccino, risultato, eccetera. Crollo delle vendite. Del 50% del consumo del caffè. Gli uffici funzionavano tutti bene, infatti poi ho preso l'80% dei voti nella volta successiva, e poi alla fine, dopo qualche mese, i sindacati hanno fatto casino a non finire, me ne sono fregato, gli ho messo un diciamo così, con un recipiente di plastica per prendere l'acqua, perché sennò la macchina non poteva funzionare, non è che ho fatto un nuovo impianto per metterlo nel mio ufficio. E il risultato finale è che poi ho riportato giù la macchinetta, adesso funziona bene, al massimo ci vanno in due, prendono il loro caffè, se lo riportano. Ma lei è di quelli che dice vanno rieducati. Ma ci mancherebbe altro. Ho capito, ma mica sono degli animali, ma non è che sono degli animali, però ogni tanto se non gli si dà tra virgolette una bastonata non capisce niente nessuno, cioè ci sono cosa tanti vuol dire una bastonata? Bastonata nel senso una lezione, nel senso che i dipendenti pubblici ce ne sono tanti bravi. La signora che parlava prima, io concordo con lei, cioè viene tutto equiparato, cioè quello bravo e quello che non ha voglia di lavorare prendono lo stesso stipendio. Quando tu cerchi di migliorare quello che è bravo, il sindacato interviene e dice ma come, il premio dobbiamo darlo a tutti, allora lo diamo al cretino, a quello che non ha voglia di lavorare, a quello che guarda internet, a quello che fa la sistema enigmistica, e lo diamo uguale anche a quello che si impegna, che non guarda l'orario e che cerca di essere sempre gentile con la gente. Guardi, buon anno. Io mi arrabbio, quando c'è il cittadino che paga le tasse e che giustamente viene a chiederti una cosa, e c'è pure il dipendente pubblico che lo tratta come un cane. Guardi, buon anno. No, buon anno. Lei mi fa tanto arrabbiare quando dice tipo sodomia e libertà in Parlamento, viene espulso. Ma a questo punto devo dire quanto ha ragione. Quanto mi dispiace dirle che ha ragione adesso in questa. No, perché mi fa tanto arrabbiare quando dice alcune cose, quando fa alcune cose, ma in quest'ultimo minuto vorrei ritagliarlo e scolpirlo, no? Da qualche parte. però poi non è che poi vuoi andare in Parlamento per dire tutte le cavolate che le passano per la mente, no? Sono tutte cavolate, scusi. Sodomia e libertà, quello che ho detto, e l'ho preso dalla Bibbia, sodomia. Sodomia e libertà. L'hanno anche espulsa dalla Camera per questo. Ma non per quello, sono stato espulso perché io ero contro lo svuota carte. Però che ci sia la lobby dei sodomiti, quello ormai è insindacabile. Mamma mia, la lobby. No, qua usciamo fuori dal seminato. Allora, Alberto Forchielli, le chiedo questo. Lei quando sente il presidente della commissione bilancio dell'Assemblea regionale siciliana, Nino Dina, che chiede 100 milioni... Ah, Nino Dina che ha due cellulari e telefono fisso spento, lo stiamo chiamando, doveva essere il nostro ospite, ha detto sarà volentieri vostro ospite, poi ci dirà alle 9:15 che non prendeva il cellulare, si è rotto il cellulare, si è caduto, si è zoppo... vabbè, comunque, non è evidentemente i nostri microfoni. Lei comunque, quando sente questa cosa, che pensa? Penso male, perché la Regione Sicilia di sicuro non è capace di far pubbliche relazioni, perché ormai è un caso mondiale. sia, io leggo anche poco la stampa italiana, ma anche all'estero è considerata l'emblema dell'inefficienza, dell'ingiustizia, del non far niente. Io consiglio, senza andare nel merito, consiglio che si prendano una buona agenzia di pubbliche relazioni e ci spieghino veramente come spendono questi soldi e come questi soldi rendano produttivi il paese, perché i risultati tangibili non ci sono, i soldi spesi mi risulta che ci siano. Io ho fatto anche un Google sull'onorevole Dina, con tutto il rispetto, insomma, ha dei dubbi. Insomma, diciamo che sarebbe anche possibile far parlare fonti più autorevoli. Quindi sì, penso male, se il mio tasso di il suo tasso di credibilità è abbastanza basso nei miei confronti. Ma invece, al di là della dichiarazione personale, farebbe fatica a convincermi. Adesso ho pensato molte volte come avrei potuto convincermi, ma non so. Ha pensato bene di spegnere il cellulare, forse è la cosa più convincente, lo so. Comunque, al di là della dichiarazione, al di là della sua posizione, cioè dell'onorevole Dina, la questione, c'è un problema, diceva l'onorevole Buonanno, di nord-sud o comunque di zone più produttive anche da questo punto di vista in Italia, però si sa, Buonanno è della Lega e quindi no. Lei, Forchielli, concorda però? Sì, perché... il problema è che negli anni 70 noi dobbiamo andare il deficit italiano, l'indebitamento e l'eccesso di peso amministrativo nel sud e la preponderanza di personale proveniente dalle regioni del sud della pubblica amministrazione dovuto alla politica clientelare della DC negli anni 70. Perché in quegli anni lì erano gli anni della cortina di ferro, erano gli anni in cui bisognava prendere più voti dei comunisti, ragazzi, c'era la guerra fredda e i voti si compravano così, i voti si compravano con le assunzioni. Poi si sono inventate le pensioni baby, perché con le pensioni baby riuscivi a mandare pensioni alla gente e assumere dell'altra. E quelle ce le portiamo sul gruppo. E dopo è lì che esplosa poi, negli anni 80, non sono stati sociali, negli anni 80 è esploso il problema del debito pubblico, ma è stata la coda di tutte queste pensioni associate a una più lunga vita che nessuno poi aveva previsto, che ha fatto sì che il bilancio non stesse più nei calzoni. Tutto questo però la DC l'ha fatto con la complicità del Partito Comunista, perché il Partito Comunista non poteva scagliarsi contro queste leggi, era in imbarazzo a scagliarsi contro queste mega assunzioni nel sud, contro queste mega assunzioni pubbliche, contro questo sconfinato potere dato al sindacato. Come faceva ad opporsi? Per cui è stato questo scellerato connubio tra DC e IPC che ha portato il paese ad avere un indebitamento incredibile, a indebitarsi per non far nulla di produttivo. Tre giorni fa Forchielli ci ha regalato il racconto, non so se ci vuole dire, di quando è andato qualche giorno fa in un sono andato al mio comune Imola. Alle 8:30 mi sono presentato perché non volevo fare la fila. Quando mi ha visto l'impiegato, ero con la mia segretaria, non è che mi conoscesse, ha incominciato a 10 metri a dire: io non sono sicuro se lo posso fare, era l'autentificazione di una firma, no? Ma non è che mi ha detto: senta, venga qui, mi spieghi cosa posso fare, vediamo un attimo, posso aiutarvi. No, da 10 metri ha cominciato a dire: io non so come posso aiutarvi. Questo io divento una bestia, capito? Preventivo. Sì, preventivo, era il no preventivo. Non, no, venga qui, vediamo un po' di mettere a posto la questione. E questo è un piccolo comune anche efficiente della Romagna, capito? Che comune è? Come si è ammessi? Imola. Ma sono anche amico del sindaco, dopo il sindaco mi chiama per sapere chi. Ma come si è ammessi? Questo preventivo. Che poi non fate arrabbiare Forchielli. No, che poi me l'ha fatta la firma, capito? Sì. Però intanto subito, no? E naturalmente, come sono io mi sono subito girato i coglioni, capito? E dico: ma che paese è? che ti accolgono dicendo, capito? Poi naturalmente mancavo 4 marche, 7 fogli, per cui 7 sono dovuti andare avanti in fila, ma a me è possibile che non si riesca mai a arrivare a un ufficio a sapere che cosa veramente ci vuole? Ma insomma, guardate, per uno che vive all'estero è veramente è eclatante questo. E pesa tragicamente sulla base produttiva. Per cui cosa succede? La base produttiva migra, se ne va dall'Italia, non crea in Italia, ma le tasse le produce la base produttiva. Poi arriverà un bel giorno che non ci sarà abbastanza base produttiva, sta calando ogni giorno ovviamente, per pagare sta gente. Allora, a Detroit non riescono a pagare, non dico gli stipendi, ormai i dipendenti pubblici sono andati, sì, su carta straccia, ma non riescono a pagare le pensioni. Stavo cercando di transare per pagare il 10% delle pensioni. Capito? Dice perché la base produttiva se n'è andata, abbandonata la città. Fatemi sentire un ascoltatore che ci ha chiamato, ce la facciamo. Ennio dalla provincia di Roma. Ennio, buongiorno. Sì, buongiorno. Senta, io volevo dire questo. Per quanto riguarda i dipendenti pubblici, io sono stato un dipendente pubblico e lavoravo all'Istituto Nazionale di Statistica. Sì. Oh, allora, il mio posto purtroppo non mi permetteva di entrare o più tardi oppure di uscire, perché poi io dovevo essere lì perché dovevo rispondere. Entravo la mattina e i portieri giocavano con i cartellini come se giocassero a poker. Andavo al personale per timbrare, ci trovavo una persona sola, quando invece ce ne dovevano essere 6, e timbrava per tutti quanti. Un mio collega di stanza, che per 7-8 mesi ha fatto un debito all'Istat di 190 milioni, non gli hanno fatto nulla. Di lire, 190 milioni di lire. Dico sì, 190 milioni di lire, non gli hanno, l'hanno sospeso per un mese e poi lo hanno rimesso al suo posto. Ma lei dice qual è il problema di questa fotografia che di lei ha vissuto? Questa fotografia che il 30% dei dipendenti pubblici se ne può fare a meno, assolutamente a meno. Lei dice un 30%. Gente che veniva a lavorare, a prendere lo stipendio, e non veniva a lavorare il giorno. Qui c'è un problema, io non so se buon anno, devo però chiudere, ho 30 secondi, dice il nostro ascoltatore che ha visto questa fotografia all'Ista del 30% in meno, adesso non so se questa cifra, però poi dopo c'è il problema, disoccupazione eccetera, che facciamo, creiamo altri posti di lavoro da occupare? Però la logica è stata quella, di prendere tante persone perché così gli si dà uno stipendio, ma così non andiamo avanti. In più, quando vediamo, adesso il signore ha fatto questi esempi, ma quando vengono beccati, ma come anche la Malpensa che rubano dalle valigie, cioè, poi cosa succede? Mai nessun licenziato nelle ferrovie dello Stato uguale, con il risultato che uno vede evidente è, allora alla fine non paga mai nessuno, tutti possono fare quello che hanno voglia, allora se tu rubi, se tu timbri per gli altri, se tu non fai niente, prendi lo stesso stipendio, ma che motivazione c'è? No, ma è chiaro, su questo c'è sempre il giudice del lavoro, però mi devo fermare, vi ringrazio, l'onorevole Gianluca Buonanno della Lega, come ringrazio Alberto Forchielli, presidente dell'Osservatorio Asia, ringraziamo anche l'onorevole Nino Dina, presidente della Commissione Bilancio all'Assemblea Regionale Siciliana, che ora può pure riaccendere i cellulari, e ci ritroviamo domani mattina alle 6:30.